Ecco, io non so cosa pensiate voi di tutta la storia del decreto State, quello che il governo si è visto bocciare alla Camera perché una quantità di deputati di maggioranza aveva di meglio da fare che presentarsi a votare e tutti a quanto pare contavano sul fatto che ci avrebbe pensato qualcun altro. A me, francamente, è sembrato un esempio straordinario di malcostume politico. Ma non perché pensi che un deputato, o nel caso più deputati, non abbia il diritto d'assentarsi in caso di necessità. E non avrei certo preteso che l'onorevole Mussi, che ieri ha precisato attraverso l'ufficio stampa del suo gruppo d'essere in convalescenza in seguito a un serio intervento chirurgico, si facesse portare in aula in barella. So che al mal di denti non si comanda, specie se, come ha spiegato di se stesso l'onorevole Rosi Bindi in un'apposita intervista, sia la soglia del dolore bassa. Per cui un appuntamento dal dentista può essere più importante di qualsiasi impegno politico. Non ignoro che esistono obblighi sociali e umani cui non è possibile né giusto sottrarsi. Per cui ha fatto benissimo l'onorevole Marini a bigiare la seduta per partecipare ai funerali della mamma di Gerardo Bianco, povera donna. Non mi sfugge che in una società massmediatica come quella in cui ci tocca vivere, la causa del governo spesso la si difende meglio in televisione che in Parlamento. E non mi sognerei di rimproverare il ministro Dini che ha perso la seduta perché era impegnato a registrare porta a porta con Bruno Vespa. E naturalmente mi rifiuto di fare, come ha fatto buona parte dei giornalisti parlamentari, dello stupido umorismo sull'onorevole Silvana D'Ameri del PDS che ha perso la vocazione perché ha dovuto andare alla toilette. Direi di più. Se tra gli assenti di giovedì scorso ce ne fossero stati alcuni in malattia, come dire, diplomatica, nel senso che non hanno partecipato al voto perché a coloro quel decreto proprio non andava giù, ma non potevano dirlo espressamente per disciplina di gruppo, non mi scandalizzerei più di tanto. Deputati e senatori, ai sensi della Costituzione vigente, articolo 67, svolgono la loro funzione senza obbligo di mandato, il che significa che possono votare come cavolo gli pare, e la disciplina di gruppo mi è sempre sembrata contraddittoria con questa prerogativa, che non è mica una cosa da poco, perché è quella su cui si fonda in sostanza l'intero sistema parlamentare. No. A scandalizzarmi sono state le dichiarazioni di tutti quelli che si sono affrettati a farci sapere che quel voto, sgradevole finché si vuole, soprattutto perché ricorda ai distratti che senza i voti di Rifondazione non si batte un chiodo, in realtà non conta niente. È solo un banale incidente di percorso, ad onta del quale quella privatizzazione la si farà comunque perché tanto è prevista dalla finanziaria, che quel decreto in sostanza non serviva a niente. E che naturalmente autorizza chiunque a chiedersi come mai con tutto quello che hanno da fare i parlamentari su di esso vi si siano chiamati a votare. E deve essere una domanda indelicata, perché non l'ha fatta nessuno, tranne un personaggio che è antipatico per programma, il vicepresidente della Confindustria. Ma ammetterete che una sua logica ce l'ha. E quando un più attento esame si scopre che qualcosa di non altrimenti previsto altrove in quel decreto c'era davvero, l'imputazione dei fondi da destinare all'IRI, qualsiasi cosa sia, e più alcuni non precisati aspetti di carattere fiscale, e che il governo sta ragionando su come riproporre questi aspetti, come ha dichiarato il sottosegretario alle Poste onorevole Vita, le perplessità dovrebbero farsi ancora maggiori. Che quando il Parlamento ti boccia una proposta, il governo la porti avanti lo stesso, deve essere prassi costante in Croazia, dove non a caso il presidente Prodi si è affrettato ad andare subito dopo il voto a scambiare sorrisi e salamelecchi con il locale dittatore. Ma non è prevista dai nostri meccanismi istituzionali. A meno naturalmente di sostenere che quelle che contano sono le intenzioni. Un principio largamente impiegato, credo, nella preparazione all'esame di coscienza e quindi ben noto a un governo in cui 21 aprile o non 21 aprile si continua a respirare una certa aria di sagrestia, ma che francamente non vorremmo vedere approdare alla bicamerale. Oh, c'è un'altra cosa. La cosa davvero sgradevole è che giovedì 16 gennaio gli onorevoli membri della Camera dei Deputati, tutti o in parte non si capisce, devono essere in qualche modo riusciti a superare il problema degli impegni pregressi, visto che hanno approvato l'aumento del proprio stipendio in misura di 1.800.000 mensili per un totale sempre mensili di 18 milioni lordi, un poco meno. Lo si apprende da un articolo anonimo in taglio basso a pagina 7 del Corriere del 17 gennaio successivo, sotto lo strano titolo «Deputati, senatori e magistrati dovranno dichiarare anche i bot». L'articolo in sé è piuttosto reticente, è quasi criptico, ma sembra potersene ricavare che l'obbligo di indicare nella dichiarazione patrimoniale anche il possesso di titoli di Stato e i depositi bancari è soltanto eventualmente previsto per un futuro da definire da un decreto di legge messo a punto dal comitato ristretto che la Commissione Anticorruzione della Camera esaminerà a partire da martedì prossimo. Mentre l'aumento quello è cosa fatta, e cosa fatta scatterà senza fallo dal prossimo mese di marzo, compreso però gli arretrati da questo gennaio. Una volta a protestare per faccende di questo genere si era praticamente sicuri di attirarsi la nomea di qualunquisti. Oggi, che la coscienza dei problemi che affliggono il bilancio e dei sacrifici necessari per entrare in Europa è tanto più diffusa, siamo sicuri che nessuno ricorrerebbe a quella vecchia linea di difesa. Probabilmente anche quell'aumento è stato un incidente di percorso.